Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Questa è una storia vera. La storia di un piccolo imprenditore lombardo che da qualche anno ha venduto la propria azienda, ne ha ricavato una discreta somma e l'ha affidata a un broker finanziario svizzero, assai spericolato. Ha perso tutto e oggi ricomincia da capo, a 70 anni. Il nostro signor Brambilla, lo chiameremo così per rispettare la sua privacy, deve ancora raccontare tutta la storia ai familiari e si vergogna un po'. Dopo 40 anni di intenso lavoro aveva ceduto all'idea di separarsi dall'azienda che aveva fondato. Ecco, dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini e dal nostro regista Filippo Aureggi. Il Sole 24 Ore racconta in prima pagina questa storia e poi andiamo a curiosare alla fine del pezzo e scopriamo che la storia viene scritta e raccontata dal direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli, che sigla il pezzo. Sì, è vittima di un broker, torna a fare imprenditore a 70 anni, i figli si occupavano d'altro, l'età avanzata bisognava fare un po' di investimenti, il mercato non era così promettente, insomma tante buone ragioni per vendere. La cifra offerta peraltro non era disprezzabile, quasi 5 milioni di euro. Perché no? E quando mi capiterà un'occasione così? Si era chiesto il nostro signor Brambilla dopo notti insonni, riunioni di famiglia, consigli di amici imprenditori. Sì, dai, facciamo questo passo, è ora di riposarsi, di fare altro. Bene, l'azienda cambia proprietà e ormai l'ex imprenditore si trova alle prese con un problema non piccolo e per il quale non è particolarmente esperto. Che cosa fare dei propri soldi? Ecco il racconto di Ferruccio De Bortoli, direttore del Sole, sul Sole 24 Ore oggi, di questo imprenditore. Scartate offerte domestiche e semplici ritenute troppo banali, Brambilla viene sedotto dalle promesse di un broker straniero, tanto abile nelle parole quanto temerario negli atti. È curiosa la facilità, scrive De Bortoli, con cui molti navigati imprenditori ed esperti manager, una volta alle prese con i propri risparmi, finiscono per smarrire se stessi, intimiditi e storditi dal linguaggio della finanza strutturale. Il nostro piccolo imprenditore, sbagliando, pensa che gli altri rendimenti offerti non siano correlati ai rischi ugualmente elevati e per di più invisibili. Insomma, arriva la crisi dei mercati e il suo broker di fiducia, un po' imbarazzato, lo chiama. Mi dispiace, ma il suo patrimonio è sceso un po'. Di quanto? Chiede il nostro, già rassegnato a una limatura del proprio investimento, ma non di più, intorno ai 300.000 euro. Il mondo crolla sulle gracce di spalle del signor Brambilla, che si sente ingannato e perduto, sconfitto, umiliato, assalito da un colossale senso di colpa. Lui, così attento e parsimonioso, non sa come dirlo ai familiari. Ma che cosa è successo, Brambilla? Mi sono stufato di non fare nulla tutto il giorno. Alla sua età e con questi chiari di luna? Sì, proprio così, in famiglia lo guardano come un matto. Lui confida agli amici su sta proprio un pirla. Ma noi preferiamo pensare che la sua storia sfortunata sia una bella dimostrazione che lo spirito imprenditoriale, quando c'è, è forte e non ha età. E questo diceva il Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli, che racconta in prima pagina questa storia, una storia lombarda. Il quotidiano, il Sole 24 Ore, apre su banche, pronta la manovra, Berlusconi ok, bond, subordinati senza cambiare i manager, e questa una parte, diciamo, del tema della crisi economica. E ancora al via la riforma della scuola, fondi solo per i migliori, il decreto Gelmini è legge, ora toccherà l'università. Qui ci sono ottimi motivi per una riforma drastica, perché gli atenei italiani costano come quelli europei, ma sono molto meno efficienti e in alcuni casi semplicemente corrotti. Le proposte sul tappeto sono tantissime, tutte ovviamente all'insegna del merito. Questo scrive sul Sole 24 Ore Roberto Perotti, che, e vi voglio informare, sarà ospite, docente di economia alla Bocconi, autore del libro L'Università Truccata, e editorialista del Sole 24 Ore, come vi dicevo, sarà ospite alla trasmissione Dietro la Notizia alle 8.30, condotta dal direttore di Radio 24, Gianfranco Fabi. Il Il Sole 24 Ore riporta anche le notizie relative alla crisi internazionale e alle prese di posizione della Fed, che riduce i tassi all'1% e prepara altri tagli anticrisi. E forse per questo che, come avete sentito dai GR, le borse, la borsa di Tokyo è in esplosione di nuovo verso l'alto. Questo Il Sole 24 Ore. Vi dicevo che però banche, pronta la manovra, sì, quella sulla manovra, sulle banche, è solo un aspetto della politica governativa e non è l'unica. E invece sull'altra questione, la questione della detassazione, la questione dell'intervento sui salari, probabilmente divide il governo. Il Corriere della Sera ne coglie questo aspetto ed è Francesco Verderami che scrive un articolo dal titolo "Il poliziotto buono e quello cattivo". Ieri mattina Silvio Berlusconi invitava il paese a essere ottimista davanti alla crisi finanziaria. Ieri sera Giulio Tremonti ha detto che è ottimistico parlare di recessione. Delle due l'una: o il gioco della politica del poliziotto buono e di quello cattivo, o tra Berlusconi e Tremonti c'è qualcosa che non va. Di sicuro è diverso l'approccio all'emergenza. Da una parte c'è il leader politico pronto a sforare i limiti di Maastricht per dare ossigeno al paese e offrire una deduzione fiscale almeno alle famiglie numerose. Dall'altro c'è il garante del patto sottoscritto con l'Europa, che non intende toccare la finanziaria perché vuol tenere al riparo la credibilità del sistema nazionale e con essa l'asta dei bot. Sarà pur vero che insieme stanno cercando una soluzione alla crisi, ma sui tempi e i modi hanno visioni divergenti. Berlusconi punta a una scossa immediata anche per evitare un crollo della sua credibilità che si rifletterebbe sulla stabilità del governo. Tremonti è proiettato invece sul medio termine e ha buon gioco nel sottolineare che non sono alla vista scadenze elettorali e che quindi, insomma, da questo punto di vista ci sono opinioni diverse. Io voglio anche segnalarvi sul Corriere della Sera un titolo, Ayan Hirsi Ali, la barbarie che il mondo deve punire, la donna lapidata. Sì, ieri l'avevo trascurata questa notizia. I ribelli islamici di ispirazione wahabita e associati all'Unione delle Corti Islamiche, già scacciati dal Mogadiscio nel 2006 dalle forze governative somale ed etiopi con la benedizione degli Stati Uniti, oggi hanno il controllo della città di Kisimayo. Come primo atto di governo hanno imposto la Sharia e, come sempre, la prima cosa che hanno fatto in nome di questa eccelsa legge tribale è stata quella di cercare una donna da punire. Una giovane di 23 anni, Aisha Ibrahim Dulou, è stata lapidata per adulterio, e questo viene denunciato sul Corriere della Sera. È ancora una notizia internazionale che qui viene messa in evidenza: i ribelli avanzano, caos in Congo. In Congo l'esercito del generale ribelle Laurent Nunda ha sconfitto le truppe del presidente Joseph Kabila e ora minaccia Goma, la capitale del Nord Kivu. Le truppe del MONUC stanno a guardare impotenti la catastrofe umanitaria. E questo sul Corriere della Sera. Riforma Gelmini, scuola, scontri di piazza. La lotta gli studenti e gli insegnanti non divide soltanto le forze politiche, ma anche i quotidiani, anche la stampa, sì. Il quotidiano Libero saluta, per esempio, l'intervento della polizia come benvenuto. Il giornale titola "Come voleva si dimostrare". La Repubblica invece racconta e sostiene che i primi ad aggredire sono stati quelli della destra. E il segretario della CGIL, Epifani, rilascia alla Riformista questa intervista, che così viene titolata. Epifani cavalca l'onda, movimento incredibile, temo le infiltrazioni. Strani gli incidenti di Roma. Mi chiedo, l'irruzione degli studenti di destra è casuale? Il governo non capisce i giovani e a Berlusconi dico che la democrazia non è manica larga o stretta, è democrazia. Sia il referendum sul Partito Democratico, ma che non ci sia cappello politico. Il leader sindacale racconta la mobilitazione di oggi contro il decreto Gelmini, la più grande di sempre, e ricorda i suoi esordi da contestatore. Al liceo, con i giovani di Don Giussani, fece il discorso per Jean Palach. Epifani, 14 studenti sono stati fermati ieri a Piazza Navona dopo violenti scontri tra esponenti del movimento di destra, blocco studentesco, militanti di centri sociali e la polizia. Cosa è successo? Dopo due settimane di manifestazione pacifica la protesta sta diventando violenta? Io mi chiedo, l'infiltrazione di destra è voluta o non voluta? Trovo alquanto sospetto, dice Epifani, che questi incidenti stiano aumentando proprio in questi giorni. Che motivo c'era? Adesso è chiaro che la notizia è diventata lo scontro, non le manifestazioni pacifiche. Io temo un innalzamento del livello dello scontro e chiedo al governo e alla polizia di comportarsi come sanno fare quando vogliono. Bisogna isolare i provocatori. Ieri non sono stati isolati? No, almeno stando alla ricostruzione offerta da chi manifestava pacificamente davanti al Senato. Sembra che un gruppo di fascisti abbia picchiato ragazzi del tutto inermi. La polizia è intervenuta solo quando sono arrivati i centri sociali. Finché picchiavano gli studenti nessuno è intervenuto. Lo schema è stato questo. E questo è il tono, diciamo, della intervista di Epifani, segretario del CGIL, al Riformista. Epifani, peraltro, nella sua, ovviamente, nella sua intervista, difende anche l'iniziativa di oggi a proposito lo sciopero generale della scuola. Il movimento dei giovani è incredibile, la sua forza e la sua fragilità stanno nel fatto che la protesta non ha capi ed è auto-organizzata, ma come avete visto il pericolo invece dei giornali, denunciato dai giornali anche non di destra, è che in realtà poi questo cappello politico, la politicizzazione estrema del movimento, ne poi soffochi lo sviluppo. Voglio solo prima di per esempio Claudio Mancina, proprio sul Riformista, scrive: quanti cattivi maestri con gli scontri di ieri a Piazza Navona tra studenti o presunti tali di destra e di sinistra. La bella favola del movimento studentesco apolitico è già finita. La politica, anzi il conflitto politico, che sembra essere l'unico tipo di politica si possa fare nel nostro paese, ha ribadito il suo protagonismo. Questo infatti è una riflessione che viene fatta proprio sul Riformista. C'è anche un servizio di Michele Gentili sempre sul Riformista. Brunetta parla troppo, si dice nel PDL. Sacconi e Brunetta a turno alzano la voce. Cresce il fastidio per i danni politici causati dai ministri esternatori, nel mirino pure Sacconi. Ecco, questo è il giudizio che viene fatto in questo servizio del Riformista a proposito delle esternazioni frequenti del ministro Brunetta. Come vi dicevo, però, sono molto diverse le posizioni, perché se questa è la posizione di Epifani nell'intervista al Riformista, a proposito degli scontri c'è Libero che è esplicito, come vi annunciavo: visto, per questi pacifisti ci vuole la polizia. Allora, eravamo scemi noi oppure la polizia serviva? Come voleva si dimostrare, alla fine è dovuto intervenire la madama per raffreddare i bollenti spiriti degli studenti. I tafferugli erano nell'aria, così come la voglia di menare le mani. Era solo questione di ore. I mammalucchi della sinistra sono serviti di barba e capelli. Chiamate la polizia, titolava Libero qualche giorno fa, e per questo ci siamo sciroppati dei rampogni del primo della classe Veltroni, il quale ad anno zero ironizzava sul nostro buonsenso, poveretto. Quando ci permettemmo di dire a voce alta quel che parecchie persone normali stavano dicendo nel tinello di casa davanti alle immagini dell'occupazione, la protesta era solo all'inizio, era nell'anticamera. Tanto bastava però per capire dove sarebbero andati a parare, bastava leggere gli striscioni ed ascoltare le parole d'ordine. La scienza va difesa dai barbari senza indugiare troppo sui diritti degli altri. Per questo chiedevamo l'intervento degli agenti per garantire il diritto della maggioranza silenziosa e studiosa. Questo il quotidiano Libero a proposito dell'intervento o meno della polizia, della necessità e della politicizzazione dello scontro all'interno del movimento. E ancora il titolo di prima pagina è: maestri di idiozie, oggi niente lezioni, insegnanti e studenti vanno in piazza per protestare contro il decreto Gelmini, ormai legge. Veltroni raccoglie le firme per un referendum che non elimina i tagli. Ed è Vittorio Feltri che invece, si sofferma a lungo sulla vicenda dello sciopero generale di oggi. Voglio farvi notare che anche il quotidiano Libero, a proposito del governo e la crisi, scrive: Silvio pensa alle famiglie, cioè un intervento sulle famiglie, ma Tremonti vede nero. Giulio: recessione è un eufemismo, il premier, le tredicesime vedremo, ma non ci sono i soldi. Domani il CDM, il Consiglio dei Ministri, nuove norme per banche e aziende. Questo è il quotidiano Libero, non differente nei toni, diciamo, a proposito delle manifestazioni, è il quotidiano, il giornale. Il giornale scrive: come volevasi dimostrare, dopo che per settimane la sinistra ha soffiato sul fuoco, gli studenti si picchiano in piazza. Ed è Vittorio Macioce, che scrive: attenti agli stregoni, chi avvelena la protesta. Quanto tempo è passato? Erano tanti anni che non si vedevano studenti di destra e sinistra prendersi a botte. Piazza Navona sembrava una macchia del passato. 4 feriti, 2 arresti, bottiglie che volano, spranghe post-moderne. Uno dei feriti racconta: ero a terra, mi hanno colpito con cinte e caschi. Quelli del blocco studentesco, la destra estrema del movimento, rispondono: pubblicheremo su YouTube e Facebook. Mostrano una realtà ben precisa, gli scontri sono fomentati dagli antifascisti che non accettano l'unità generazionale di destra e di sinistra. Tutti gli uni e gli altri giocano alla rivoluzione e sfilano contro la Gelmini. Questa storia di ieri è magari solo un'interferenza spazio-temporale, una di quelle immagini che arrivano dalla storia e subito si dissolvono, una sorta di déjà vu. Questo scrive Vittorio Macioce sul Giornale a proposito degli scontri di ieri. Ma se stiamo sui quotidiani, vediamo che diversa è l'opinione del quotidiano La Repubblica, in particolare Curzio Maltese, che firma un racconto. Aveva l'aria di una mattina tranquilla nel centro di Roma, nulla a che vedere con gli anni 70, negozi aperti, comitivi di turisti, il mercatino di Campo dei Fiori, colmo di gente. Certo, c'era la manifestazione degli studenti a bloccare il traffico. Ma ormai siamo abituati, va avanti da 2 settimane, sospira un vigile. Alle 11 si sentono le urla, in pochi minuti un'onda di ragazzini in fuga da Piazza Navona invade le bancarelle di Campo dei Fiori. Sono piccoli, 14 anni, al massimo, spaventati, paonazzi. Davanti al Senato è partita la prima carica degli studenti di destra. Sono arrivati con un camion carico di spranghe e bastoni, misteriosamente ignorato dai cordoni di polizia. Si sono messi alla testa del corteo, menando cinghiate e bastonate intorno. Circondano un ragazzino di 13 anni o 14 e lo riempiono di mazzate. La polizia a 2 passi non si muove. Questi racconti di Curzio Maltese. Sono una 60, hanno caschi e passamontagna, lunghi e grossi bastoni, spesso manici di picconi, ricoperti di adesivo nero e avvolti nei tricolori. Urlano: duce, duce, la scuola è bonificata. Dicono di essere studenti del blocco studentesco, un piccolo movimento di destra. Questo è il racconto che viene fatto dal quotidiano La Repubblica, a dire, insomma, non è come raccontano altre fonti. Voglio segnarvi altre 2 cose. Intanto Gadlener, a proposito della possibilità che Barack Obama vinca le elezioni negli Stati Uniti. È possibile, anche se per nulla scontato, che nei prossimi giorni un nero, un meticcio, un sangue misto, fate voi, venga eletto al vertice della prima potenza mondiale. Se tale evento si verificasse, a dispetto delle resistenze, dei pregiudizi che nessun sondaggio opinione è in grado di registrare perché impronunciabili, avrebbe conseguenze culturali e politiche straordinarie, ben oltre i confini degli Stati Uniti d'America. Per intuirlo basta leggere come lo stesso Barack Hussein Obama Jr. desidera presentarsi. In quanto figlio di un nero e di una bianca, nato nel crogiuolo razziale delle Hawaii, con una sorella per metà indonesiana ma in generale scambiata per messicana o portoricana, è un cognato e una nipote di origini cinesi con alcuni consanguini che assomigliano a Margaret Thatcher e altri così neri da poter passare per Eddie Murphy, tanto che i raduni familiari assumono l'aspetto di una riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è mai stato possibile limitare la mia lealtà su base razziale o misurare il mio valore su base tribale. Mentre noi ci gingilliamo ancora con la razza Piave e l'identità padana, l'America non vive più la razza Obama come corpo estraneo e dunque può aspirare a un superamento simbolico dei conflitti razziali che pure hanno contraddistinto tanti passaggi drammatici della sua storia. Ecco, questo sul quotidiano La Repubblica, Gardner, a proposito della possibilità straordinaria che Barack Obama vinca le elezioni americane. Eccessi muscolari, questo è il titolo del commento di Federico Geremica sul quotidiano La Stampa. Che il confronto politico stesse scivolando lungo un insidioso piano inclinato era sensazione diffusa ormai da settimane. La giornata di ieri, con l'ennesimo braccio di ferro al Senato sul decreto Gelmini e gli scontri tra studenti in piazza Navona, ha però rivelato come la situazione stia precipitando con una rapidità che non può non preoccupare. È possibile naturalmente che non sia già troppo tardi per trovare una via che riapra uno straccio di confronto tra governo e opposizione e tiri fuori il paese del suo ultimo paradosso, cioè il massimo di divisione sociale in un momento in cui ci sarebbe bisogno il massimo della coesione. Il governo perde consensi, scrive Federico Geremica, ed è rapidamente sceso sotto la soglia del 50%. L'opposizione non ne guadagna e anzi ne raccoglie sempre meno. Il paese appare preoccupato e diviso a metà. In questo quadro fatto di sfiducia crescente e confusione, i cittadini attendono gli effetti di una crisi economica che renderà nervoso e stentato il Natale di molte famiglie italiane. Scrive ancora Federico Geremica sul quotidiano La Stampa. Non vorremmo sbagliare, ma la sensazione è che l'esecutivo, prima di tutto, e poi il paese nel suo complesso, inizino a pagare il conto di una politica di governo muscolare, che in Italia del resto non ha portato mai bene a nessuno. Quello che è stato vissuto come un attacco generalizzato a intere categorie, dagli impiegati fannulloni ai giudici da far passare attraverso i tornelli, dai docenti universitari trasformati tutti in baroni, a studenti e genitori definiti ora facinorosi, ora vittime di strumentalizzazioni, ha seminato ansia e preoccupazione in un momento in cui era ben altro ciò di cui si sentiva il bisogno. E dice ancora, a proposito dei decreti, 23 decreti in poco più di 5 mesi, ne era annunciato addirittura uno per punire chi sporca la città, e 7 voti di fiducia non hanno certo favorito quello che si è soliti chiamare dialettica parlamentare. E poi dice ancora che la decisione di Berlusconi preluda a una sorta di correzione di rotta dopo l'ebbrezza da decisionismo e consensi in crescita, potranno però dirlo solo le prossime mosse del Premier. Ci si riferisce evidentemente alla legge elettorale europea. Come abbiamo visto, Berlusconi proprio ieri ha detto va bene, possiamo immaginare una legge concordata, però se non troviamo una soluzione si va a votare così, con queste regole. E quindi, tra altre cose, molti giornali osservano che questo ha spiazzato fortemente Walter Veltroni. Vi dicevo, La Stampa, ecco, La Stampa a proposito di Berlusconi scrive una storia carina. La casa Berlusconi diventa una sitcom. L'altro giorno nel cortile Palazzo Grazioli gli uomini della scorta di Berlusconi si sono accostati a quei cineoperatori mai visti prima e hanno chiesto: cosa state facendo? E quelli: siamo di Red TV. È uno dei capiscorta: allora va bene. Acronimo noto agli agenti, da qualche settimana Red, la nuova tele di D'Alema, che inizierà la trasmissione il 4 novembre, è andata ad abitare al pian terreno del palazzo del quale abita il Presidente del Consiglio. E per fare che cosa? È inimmaginabile, insomma, una sitcom. Ma quel che gli agenti non potevano immaginare è il motivo per il quale gli operatori stavano armeggiando in cortile. Uno dei programmi di punta della nuova TV sarà una sitcom comico-satirica intitolata Palazzo Grazioli, una commedia leggera ambientata nel cinquecentesco Palazzo dei Principi Grazioli, è destinata a raccontare di cavalieri vecchi e nuovi, di fantasmi e tesori sepolti nel sottosuolo, il tutto immerso in un'atmosfera da Pochad. Progetto spiazzante, ma che fa capire le ambizioni e la voglia di far parlare di sé di Red, la ex Nessuno TV, che a giorni sarà acquistata dalla dalemiana Fondazione Italiana Europea. Beh, sì, un'avventura televisiva, qualcuno dice, molto rischiosa, perché fare televisione costa tantissimo. E questo il quotidiano La Stampa. Tra altre cose, La Stampa invece affida il commento sulla scuola, la riforma, a Luca Ricolfi, che invece non è affatto tenero con chi ha contestato, e dice: ma quella degli sprechi è solo una delle due facce del problema dell'istruzione in Italia, l'altra faccia è il tragico declino dei livelli di apprendimento e la scarsissima preparazione dei nostri diplomati laureati, specialmente nelle regioni meridionali. Di questo sono corresponsabili ministri e docenti, ma anche gli studenti e soprattutto le loro famiglie. Il sistema dell'istruzione in Italia, dice Ricolfi, si regge su due patti scellerati: nella scuola il patto tra insegnante e famiglie, nell'università il patto fra docenti e studenti. Il cardine del primo patto è l'importante, che il ragazzo scusate, sia sereno, vada avanti senza soffrire troppo, prenda il diploma, che poi impari molto poco, conta di meno. Il cane del secondo patto è l'importante arrivare alla laurea. Questo sul quotidiano, ancora scusate, La Stampa, Luca Ricolfi, due patti scellerati. Il quotidiano L'Unità titola Facciamo l'ipotesi. In realtà L'Unità riporta un lungo discorso del 20 marzo 1950 di Piero Calamandrei. Facciamo l'ipotesi è la prima pagina, è un modo originale, diverso di aprire la prima pagina. Facciamo l'ipotesi che ci sia un partito al potere, un partito dominante il quale non vuole fare la marcia su Roma e trasformare l'aula in un alloggiamento per manipoli, ma vuole istituire senza parere una larvata dittatura. Allora che cosa fare per impadronirsi delle scuole, per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno un difetto di essere imparziali. C'è una certa resistenza in quelle scuole, c'è sempre, perfino sotto il fascismo c'è stata. Allora il partito dominante comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, a impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Ecco, l'operazione è rovinare le scuole. Questa è l'ipotesi, naturalmente è un'ipotesi che viene di Calamandrei, molto politica, perché si riferisce evidentemente alla politica del governo Berlusconi. E questo poi Staino, Emergenza Ambiente, il secondo, il Living Planet Report: nel 2030 avremo bisogno di due pianeti, uno vero e uno ombra. Questo Staino, tra le altre cose, si dice, ho letto da qualche parte, che al vignettista non dovrebbe più essere confermato il contratto con L'Unità. E poi c'è Marco Travaglio, meno male che c'è Silvio. Questo sull'Unità. Il Manifesto invece esalta ed esulta per la lotta degli studenti. Siamo in onda, e si vede uno studente in una manifestazione, tutta la scuola in piazza oggi a Roma per lo sciopero nazionale contro il decreto Gelmini appena approvato dal Senato. L'opposizione propone un referendum abrogativo mentre la protesta continua e attraversa l'Italia da nord a sud. Ieri aggressione fascista a Piazza Navona, sprangate sugli studenti. E poi c'è un Bauro che dipinge una Gelminia Demon, ed è il ministro Gelmini visto da Vauro. E poi, ecco, io l'avevo trascurato, non abbiamo tempo, però Berlusconi all'attacco dei TG: non cooperano, diffondono pessimismo. Sì, sono molti giornali hanno riportato questa cosa di Berlusconi che dice le TV diffondono pessimismo. E con questa ultima segnalazione io vi saluto, ho finito il mio tempo e vi do appuntamento a domattina.